avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fan. Questa mattina non esagererò con l'originalità, perché già lo sanno, perché lo sto annunciando da qualche giorno, gli ascoltatori che mi seguono attraverso le appendici più personali, che sono quelle legate agli strumenti di partecipazione rete, che saranno protagonisti da lunedì di questa trasmissione. Oggi parlerò della Befana, ma non farò il solito discorsetto per raccontare da un punto di vista antropologico, storico, folcloristico cosa rappresenta la Befana. No, io ho osservato un excursus velocissimo della mia vita relazionale sentimentale degli ultimi 30 anni. Mi sono reso conto di essere stato circondato da Befane. Ho conosciuto soltanto Befane. Ho avuto rapporti sentimentali, di frequentazione, professionali, soltanto con Befane. E mi sono reso conto che la befanaggine è una categoria molto variegata. Voi immaginate che la Befana sia soltanto quella simpatica vecchietta che a cavallo della scopa viene con le scarpe tutte rotte questa notte, porterà i doni ai ragazzi buoni a cui si lascia un piattino con alcuni cibi e bevande per corroborarla nel suo lungo viaggio, che poi devono trangugiarsi, distruggere, rovinare i genitori per dare la sensazione ai bambini che il giorno dopo la Befana abbia gradito. La Befana naturalmente non può mangiare tutti i piattini di tutte le famiglie del mondo, fatene una ragione. La Befana assaggia ogni tanto qualcosa, così poi sono papà e mamma che devono supplire alla voracità in realtà sopravvalutata della Befana. Beh, questa mattina vorrei invece parlare della categoria della befanaggine. Già lanciai la crociata alle nostre ascoltatrici, molte questa mattina felicemente risponderanno. Perché io cerco veramente di definire la befanaggine, perché ormai questo vecchio, antico e trito luogo comune che la Befana sia quella cosa lì e che la notte tra il 5 e il 6 gennaio porta due ragazze è passata anche una lettura antropologica, storica, che all'origine della Befana ci fossero particolari vecchie, fattucchiere, streghe, necromanti. Non voglio nemmeno saperlo, non mi interessa. Non mi interessa perché vola la Befana, non mi interessa perché in tanti paesi del mondo fanno un grande rogo e bruciano la vecchia. Perché bruciare le vecchie? Probabilmente anche loro hanno una funzione. No, la Befana secondo me è una condizione dell'esistere, è uno stato dell'animo, è una sorta di stigma che una donna si porta addosso, anche se è di grande avvenenza. Ho conosciuto Befane bellissime. Ho conosciuto Befane profumatissime, dall'alito fragrante, non dal fognato alitare della tipica Befana. Ho conosciuto Befane che nulla avevano della babbionaggine, un'altra categoria che considero transeunte della femminilità. Ho conosciuto Befane apparentemente affabili, ho conosciuto Befane gentili, ho conosciuto Befane ottime consiglieri. Ho conosciuto Befane perfette compagne di avventure, di sollazzo, di intrallazzo, eppure erano Befane, eppure a posteriori, eppure facendo un rapido excursus sul liminare della mia esistenza, mi sono accorto che ho conosciuto soltanto Befane. Beh, questa mattina vorrei che mi fosse spiegato dagli ascoltatori, ma soprattutto dalle ascoltatrici, dovranno fare un perfido e generoso coming out, quindi esprimere il perché della loro befanaggine. Questa mattina vorrei sapere chi è la Befana, perché siete Befane, in cosa siete Befane, perché non impugnate l'orgoglio e fate un grande Befana Pride. Ho visto qualcosa di simile, ma sotto altri nomi, sotto altre definizioni, sotto altre giustificazioni. Scendiamo in piazza per il corpo delle donne? No, scendete in piazza perché siete Befane. E voglio questa mattina che le Befane di tutta Italia abbiano il coraggio, abbiano l'impudenza, abbiano l'orgoglio di raccontarmi la categoria della loro befanaggine. La Befana vien di notte, con le scarpe tutte rotte, con le toppe alla sottana. Viva viva la Befana! La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte. Viene, bussa e scappa via. La Befana è mamma mia. 800 24 00 24. Questa mattina dobbiamo definire la befanaggine. analizzando quelle che sono le banalissime e semplici e apparentemente innocue filastrocche della fanciullezza, già abbiamo dei punti di riferimento, già abbiamo un ambito di definizione di questa categoria della befanaggine. Avete sentito? Non avete mai fatto caso probabilmente a questo? La Befana è mamma mia. Perché questa canzoncina dice che la Befana è legata alla figura della mamma? Perché probabilmente, non l'ammettiamo nemmeno con noi stessi, ma la prima Befana con cui abbiamo a fare è proprio nostra madre. La befanaggine materna in realtà si manifesta attraverso uno smodato e anche piacevole senso di appartenenza e di soffocazione affettiva del proprio figlio. Quando il figlio entra in un'età in cui vorrebbe liberarsi naturalmente da questi amorosi lacci e laccioli, amorosi vincoli, subentra e viene in superficie anche l'aspetto più esteriore della befanaggine. La befanaggine comincia a mostrarsi per quello che è realmente, comincia a assumere anche caratteristiche fisiche, fisiologiche, la postura e il vestimento della Befana. Non la vediamo più come tale, o perlomeno la vede qualcosa all'interno della nostra più inconfessabile coscienza lucida, ma non definiamo nostra madre come una Befana, eppure lei è la prima Befana. La befanaggine materna poi è facilmente riconoscibile quando entra in contatto con un'altra Befana. Una Befana in uno stato embrionale, in uno stato sul nascere, che è la femmina pretendente ai favori fisici, sessuali, sentimentali, affettivi, ai vincoli per la vita del figlio della Befana. A questo punto una Befana già in uno stato maturo, in uno stato avanzato, entra in contatto con una Befana sul nascere. Tra lo scontro cosmico delle due Befane si crea un cataclisma. Questo vi suggerisce nulla? A quale categoria della befanaggine voi appartenete? Quale esperienza avete avuto? Avete una mamma Befana e la riconoscete come tale? Avete una suocera Befana e la riconoscete come tale? Avete una nuora giovane Befana ancora da crescere, quindi da passare attraverso un virtuoso e lancinante training di befanaggine? 800240024. Guardate, questa mattina in uno sfogo di generosità Fabrizio Intonti e il professor Chiappini mi hanno testé portato sulla scrivania una caterva di libri infami che avevano nascosto in un oscuro sacello. Pensavo di averli finiti, esauriti, ma visto che quando arriva la Befana porta via tutte le feste, anche oggi avrò un lussuosissimo libro infame, ma sarò molto parco nel darli, non sarò così generoso come a Natale, darò soltanto a chi mi definirà con esattezza un'originale definizione della befanaggine e mi descriverà lo stato di mutazione della befanaggine sin dal nascere, sin dallo sbocciare alla vita, fino alla fase ultima e, ahimè, difficilissima estirpare della propria esistenza. La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, il suo sacco è pien di toppe e le ossa ha tutte rotte. La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, s'è scucita alla sottana, viva viva la Befana! Analizziamo anche questa successiva filastrocca sulla quale probabilmente siamo sempre passati indifferenti. Perché scuce la sottana la Befana? Perché la Befana ci deve sedurre. Voi direte, no, scuce la sottana, la povera vecchietta con le scarpe tutte rotte. No, le scarpe rotte in realtà sono dei sabot, sono messi lì per attizzare le persone, per mettere quel calcagno in esistenza che piace tanto ai fissati con i piedi, che oggi sembra che siano in grande e preponderante maggioranza tra gli immaginari maschili. La Befana si straccia la sottana perché una delle categorie della befanaggine è la sua capacità seduttiva. La Befana seduce, perché la Befana porta doni, perché la Befana riempie la calza di doni? Perché in realtà la Befana vorrebbe illuderci che le sue calze sono piene dei più succosi e succolenti di doni a cui noi possiamo ambire. Questa è la mia lettura, forse lettura distorta, forse lettura provocata dalla mia amara, dura e acerrima frequentazione di Befane lungo tutta la mia esistenza. Denise, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Ah, bella, già una bella voce da Befana, sono felice. Sì, sono influenzata, per cui più Befana di così. Ecco, la Befana è un'altra caratteristica, scusa Denise, la Befana ha sempre delle malattie, ha sempre dei malesseri, la Befana deve sempre tartassarci con la sua cagionevole salute, in realtà sta benissimo, ci sotterrerà tutti, vedrà la nostra fine, la nostra decadenza, però la Befana ha sempre un male. Perché è malata, Befana Denise? Beh, mi sono ammalata appunto per essere curata, per cui c'è questo aspetto di... Vede, il ricatto viene fuori. Certo, brava. Perché così uno si può permettere di stare a letto, farsi fare la camomilla, farsi coccolare un po'. Chi sono le sue vittime in questo momento? È il mio marito. Beh, giustamente, mi sembra giusto. Certo. Quindi lei già è in una fase di befanaggine, diciamo, media. È la Befana che finalmente ha accalappiato l'uomo e comincia lentamente, giorno dopo giorno, a succhiarne l'esistenza e a trasformarlo in una sorta di larva umana. Questa è una prima versione. Infatti, secondo me ci sono due Befane. Questa è quella casalinga, coi calzettoni, malata a casa, con la sciarpa intorno al collo. Adesso lei sta dando il peggio di se stesso, vestaglia di flanella, calzettoni di lana. E certo, struccata. Fiatella pesante, tutto il massimo per togliere ogni velleità di carnale concupiscenza quel povero uomo. Chi è più Befana di così? Cioè, giustamente. Questo, ma perché lo fate? Mi spiega un segreto della befanaggine che non ho mai capito. Perché ci sono dei momenti in cui riversate sulla vostra attrattività, naturale attrazione, desiderio e via dicendo, questa sorta di catrame olfattivo, visuale, posturale? Perché volete essere schifosi in dei momenti? Per punirci del fatto che noi esistiamo? No, perché l'uomo deve essere in grado di scrostare questa patina ed arrivare oltre, andare oltre. Quindi uno si aspetta che un cavaliere, come districare il bosco della Bella Addormentata, no? Uno si deve dar da fare per quindi trovare... uno deve prendere falciatrice e raschietto e grattare la Befana finché non viene per fuori, per trovare l'oro che c'è sotto. Ah certo, così intanto passa la vita e uno sta fermo, buono e tiene le palle nel freezer naturalmente. Però volevo dire un'altra cosa, che secondo me un'altra espressione della befanaggine è quella degli incontri di donne, quando si va a mangiare fuori, ci sono queste cene solo al femminile e si parla male degli uomini. Questa è un'altra variante della befanaggine. Si chiama sabba, in antico lo chiamavano sabba, per questo le befane le impalavano e davano fuoco loro. Ah, per questo sì, motivo. Certo, davano fuoco e facevano il sabba, e gli uomini avevano paura e quindi le incendiavano, ma non è giusto. Poi, questo cos'è? C'è un lupo, sono gli animali feroci che tiene la Befana accanto a sé. Sì, sento ululare. È la mia piccola Befanina. A lei ha una nipotina? No, una figlia. Non è Befana suocera ancora lei? No, non sono ancora Befana suocera. Ah, sono quindi Befana passerà mamma. Allora Befana mamma, lei, la sua piccola Befanina crescerà, quando verrà il momento presenterà lei Befana madre, diventerà poi Befana suocera a un fortunato maschio, quando rimarrà soltanto la crisalide spoglia di quello che è accanto, comincerà a operare le sue arti magiche nei confronti della vittima di sua figlia. Devo dire, Denise, il suo incipit è stato così fantastico che vorrei dare anche io un piccolo conforto alla sua finta malattia. Complimenti, hai vinto un libro infame, sarà l'orgoglio della tua biblioteca. Alla prima Befana che ha avuto il coraggio di gettare la maschera, Denise, finta, malata, a letto, coi calzettoni e i piedi puzzolenti, per far passare a suo marito ogni barlume di desiderio, regalo il fantastico libro di non so chi, Messaggi segreti dei fiori. Trova il fiore perfetto per le tue emozioni e per i tuoi regali. È di Mandry Kirby, non so chi sia, ma penso sia un libro fantastico. Glielo dedicherò con dedica autografa e per questo probabilmente patirò le pene d'inferno per eoni ed eoni. Grazie Denise. Quando è l'ora? La Befana alla scopa salta in groppa, d'impazienza già trabocca, l'alza sulla tramontana, fra le nuvole galoppa. Il lubrico significato che sta dietro questo suo alzare la scopa, impugnare e volare fra le nuvole, naturalmente è stato già in parte spiegato dal coming out coraggioso di Denise, ma sentiamo cosa deve dirci Sabrina. Sabrina, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Befana mesta, lo sento dalla voce. Mesta no, emozionata, sì. Depressa? No, perché la Befana depressa è una di quelle che maggiormente corrodono sin dalle basi colui che incrocia il loro passaggio. Effettivamente un po' di mesto c'è, sì. Beh, comunque non era questo il discorso. No, no, volevo... è interessante. Dovete tirare fuori il veleno che c'è nella Befana. Il veleno, sì, la cattiveria. No, io mi sono resa conto di essere Befana a 30 anni. A 30 anni ho avuto la conferma. Oggi quante ne possiede sul gruppone? Oggi ne possiedo ben 47. Vabbè, ancora, diciamo. E sono ancora una Befana passabile, sto facendo il mio percorso per ottenere il peggio di me stessa. In cosa sta lavorando? Sto lavorando in tutto, no? nella coppia, nella vita, nel lavoro, sto cercando di ottenere il peggio che posso in modo da essere Befana al 100%. Ecco, chi è l'oggetto della sua attenzione befanesca? Suo marito? Sì, l'ex sicuramente, sì. Ah, sì, quindi riesce a mantenere un legame ancora vessatorio nei confronti dell'ex marito? Sì, sì, sì, io sogno di arrivare con la scopa proprio di poter fargli del male. Ma non ha già fatto abbastanza male a quest'uomo? No, forse, beh, vabbè, insomma, dipende dai punti di vista. Ma a parte questo, volevo dire che appunto mi sono resa conto di essere Befana a 30 anni quando il primo giorno di scuola della mia figlia più piccola vado per riprenderla alle elementari al pomeriggio, sono davanti alla scuola, al cortile con tutte le mamme, vedo una mamma che mi fissa, mi guarda, mi viene vicino e mi fa il 20 settembre, faresti la Befana a gennaio per la scuola? Quindi mi sono resa conto di essere Befana. Ah, ma quindi lei ha le fattezze, fisiche della Befana? Assolutamente no, eppure si vede che trapelo befanaggine, è una cosa che si ma vede. Ma provi a descrivermi, ha un naso adunco e bitorzoluto? Assolutamente no, assolutamente ha no. Ha una bocca sdentata e orribile? No, no. Cammina curva e sbilenca? Con la gobba, no, no, no. Ha una sottana stracciata sotto cui si intravedono verminose viscere? No. Vede che conferma la mia teoria. La befanaggine è una categoria dello spirito. La Befana non è quella che viene descritta. È fatto per soffocarci, per illuderci, per nasconderci e velarci la realtà della Befana. Lei probabilmente è una appetibile e passabile signora che sta dando il meglio di se stesso, dovendo anche mortificare un ex marito e dovendone accalappiare un secondo da portare alla tomba quanto prima. Quindi è Befana. E l'altra Befana ha intuito in lei la befanaggine, al di là dell'aspetto fisico. Esatto, ci siamo riconosciute tra Befane e abbiamo avuto un... Brava Sabrina, anche lei sarà premiata. Complimenti, hai vinto un libro infame. Colmerà il vuoto dei tuoi scaffali. Alla Befana Sabrina, che è stata così brava a confermarci la nostra teoria che la befanaggine sia soltanto una categoria dello spirito e non appartenga a una categoria estetica così logora, così trita come l'orripilanza fisica, regalo il fantastico libro infame, che ancora oggi può essere regalato, poi dovrebbe essere buttato al macero, di Roberto Torti, Liberiamo Babbo Natale. Perché a un certo punto anche la Befana dovrà porsi questo problema di liberare Babbo Natale. È felice, vero Sabrina? Felicissima, grazie. Bene, arrivederci e si comincia a travestire da Befana quella finta, quella che lei naturalmente sa bene che non appartiene alla terrificante missione che lei svolge nell'esistenza. Paola, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi chiamato, grazie, bellissima l'idea delle Befane. Mi piace bellissima, molto. Qualcuno dovrà pure avere il coraggio prima o poi di io in una notte insonne in cui passai in rassegna tutte le Befane della mia vita, dico, è ora, visto che erano tutte diverse e alcune anche con apprezzabili qualità estetiche, dico, bisogna dire che le Befane in realtà sono laddove nessuno immagina. Lei è Befana perché, Paola? No, io non sono Befana. Allora cosa, perché telefono? No, telefono perché ho conosciuto delle donne molto carine da giovani, appena si sono sposate si sono trasformate in Befane. Befane spiritualmente, Befane esteticamente, bigotte, uno schifo. Comincia a spiegarmi la metamorfosi della Befana, quindi non si nasce Befana? No, no, in genere è passato l'esploit degli amori, diciamo degli ormoni. E quando passa l'esploit degli ormoni? Me lo spieghi perché io non lo so. Le dico, dopo i 20 anni, quando trovano... Lei da 20 anni ha passato l'esploit degli ormoni? No, io no. Io lo mantiene tuttora? Mi auguro di sì, mi sembra di sì. E quindi non è Befana lei nel dare giusta rilevanza ai suoi sfoghi ormonali? Perché la Befana in realtà è figa di legnissimo, diciamo la verità. Sì. Se no come fa a cavalcare la scopa? Sì. Si ustionerebbe. Allora, le Befane in genere, appena sposate, incominciano a essere tranquille perché hanno trovato l'uomo che le mantiene. Ma simulavano prima allora? Sì, indubbiamente. La focosa passione della Befana in realtà... No, indubbiamente. Cercavano la... È la recita della figa di legno. Sì. Sì, sì, è così, ecco. E dopo subentra il bigottismo, la religione, le stupidaggini, le amiche, tutte quelle congreghe femminili orrende. Ma perché lei ha questo dente avvelenato? Vada più profondo nella sua esperienza. No, non ho il dente avvelenato, perché vedo e ho visto tante Befane, ho conosciuto tante Befane che in principio non erano tali. Difatti le amiche che ho non sono Befane, sono persone normali. E cosa fate di diverso da queste Befane che lei ha descritto? Le cose che per esempio non sopporto, tutte al cinema insieme, tutte quelle cose lì. Poi? Quelle belle rimpatriate in cui moglie e mariti vanno tutti assieme. Sì, sì, sì. I mariti cucinano. Sì, sì, orribile. Fanno il karaoke. Sì, sì. E le mogli stanno di là, lavano i piatti. Sì, sì. E ognuna tromba il marito dell'altra. Sì, certo. Perfetto, questa è, sta descrivendo però, diciamo, la parte precipua della nostra società. Sì, è certo. In quel caso cos'è? Diciamo, una consorteria di Befane che si spartisce, condivide, fa un social networking della povera e disperata fauna maschile che gli è capitato di accalappiare. È così la storia. E lei invece cosa fa di diverso? No, io ho cercato di non essere tale, anche perché ho avuto una mamma Befana, per cui ho cercato di essere il contrario di lei. Altro dato, ci si può ribellare alla befanaggine materna? È molto difficile. Allora, sentiamo un attimo Paola. Paola? Paola? Ah, Paola era lei, scusa, Laura volevo dire, Laura. Sì, buongiorno, sì. Nicoletti, Gianluca. No, segua il filo della Befana che l'ha preceduta e sì. Porti a sostegno della mia tesi sulla befanaggine, una categoria invisibile ma persistente in tanti modelli femminili, la sua esperienza. Lei perché è Befana? Ma dunque, sì, io sono Befana, io mi ricollego un po' a quello che diceva proprio la signora di prima, nel senso che mia mamma, insomma, buon'anima, anche lei era un po' Befana. Tanto probabilmente. Sì. No, era Befana quando ad esempio pressava troppo papà, gli faceva troppe domande, non lo so, gli faceva togliere le tende per lavarle d'estate in agosto, in pieno agosto quando faceva un caldo micidiale e lui poverino si doveva fare queste cose che odiava chiaramente, ma chiaramente per amore, diciamo, della Befana mia madre riusciva a fare. Quindi c'è un ricatto amoroso, la Befana innanzitutto, esatto. Giocherà anche sui sensi di colpa, noi uomini ne abbiamo tanti alla fine. Ci picchia, no, questo è vero. Però è vero. Sarebbe lecito che avessimo meno sensi di colpa, ma non ci facessimo tarpare la creatività dalle Befane. Lo so, ma infatti io a volte mi rendo conto di essere un po' Befana con il mio compagno, appunto quando gli sto troppo dietro, gli faccio troppe domande, dove sei, cosa fai. Ma perché insiste su questa cosa delle domande? Fare domande abbastanza lecito. Sì, però è una forma di controllo anche, no? Un po' sapere, cioè entrare proprio dentro la persona, sapere cosa sta facendo in questo momento, anche semplicemente chiedere cosa pensi. Ma perché lei è particolarmente gelosa del suo... No, gelosa no, però cioè capita, sono le donne che fanno spesso queste domande. Ma cioè, fanno anche gli uomini, ci sono uomini fissati che mettono le telecamere nelle borsette delle mogli, le pedinano. Questo è vero, però la classica domanda, mi ami? Vabbè, una domanda talmente idiota che se ancora uno la fa è da analisi, secondo me. Esatto. Io se vuole posso dire che la amo, guardi Laura, la amo. La persona che ho più amato, non ci vuole nulla a dire ti amo, se proprio questo è il problema, che ci vuole a dire ti amo? Il problema è un altro, io volevo anche tratteggiare, a parte la mia befanaggine. Allora, Laura, si fermi, devo dare la linea alle informazioni della borsa. Okay. No, non se ne vada, tenga in caldo la scopetta che è accanto a lei, perché tra un istante riprendiamo con lei dopo le informazioni della borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Che devo dire, che devo fare, con sta racchia dei mi moglie, quanto è brutta mamma mia, non la posso più guardare. Quando s'alza la mattina, mi ricorda carnevale, per sto core una rovina, quella me lo fa malà. Brutta Befana, vedi che non sei buona, partem per pago quello che non mi serve più. A volte la saggezza popolare L'esprimersi disperato di un cantore di paese esprime profonde verità, inenarrabili verità, indicibili verità alla luce dell'obbligo di un comportamento, di un pensiero politicamente corretto. Stavamo parlando di befanaggine, abbiamo definito alcune caratteristiche importanti, originali di questa categoria dell'esistenza, soprattutto femminile, ma ammesso che possano esistere anche befani, l'importante è che qualcuno me ne dia testimonianza dettagliata perché possa classificarle come sto classificando le befane. È emerso che la befanaggine è non trasmettibile necessariamente per linea diretta, la figlia della befana può anche sdirazzare e non essere befana. La befana materna, la befanaggine materna è una caratteristica abbastanza costante, esiste un momento di lucidità da cui si può ribellare, uscire dal proprio destino di befana, quindi non è un destino segnato la befanaggine. Aster inclinant non determinant, dicevano gli antichi, la befanaggine è un'inclinazione ma non è detto che sia necessariamente un fine della propria esistenza. 800240024, aggiungete la vostra testimonianza di befanaggine, fate un'autoanalisi della vostra befanaggine o illustratemi befanaggine altrui nelle caratteristiche che vi ho appena enumerato e probabilmente avrete anche un libro infame come dono. Riprendiamo con Laura. Laura, sì, allora, riassumiamo il punto. Sì, ma io volevo innanzitutto dare per par condicio ancora un elemento della mia befanaggine molto terra terra, cioè quando non mi depilo le gambe. Ah, la befanaggine è pelosa. Certo, è una delle cose più nemmeno il gambaletto salva nemmeno dalla caviglia al ginocchio. Pensato la befana media dalla caviglia al ginocchio perfettamente liscia, poi ha dei diciamo dei pantaloncini pelosi che gli arrivano fino all'ombelico, ecco. No, perché io quando faccio la depilazione poi la faccio a gamba intera, quindi non sono per le mezze vie, insomma. Però poi volevo descrivere invece la befanaggine della donna manager. Perché si lascia il pelo, scusi, solo per capire. Volontariamente, per infliggere tormenti a chi la notte incrocia i suoi piedi? No, sarebbe un po' difficile adesso spiegarlo. Però spieghi, mi sembra un fatto da non poter sottolineare. No, ma perché il pelo della befana è una delle caratteristiche che più determina la sua befanaggine. Allora, no, me lo spieghi. No, perché io lo faccio a casa, no? Con l'epilatore. Quello lì con la molletta che gira? Bravo, bravo. Quello israeliano, che è uno strumento di tortura. Esatto. Serviva per far parlare i prigionieri, poi è stato smerciato come strumento per depilazione femminile. È una molla che gira, che acchiappa il pelo e lo sradica. Bravissima. Perché chiaramente anche per risparmiare, mi riferisco alla sua trasmissione di qualche giorno fa, cioè penso anche a cosa fare. Sì, ma quando comincia a salire l'epilatore comincia a essere da urlo proprio. Esatto, fa male. Cioè, allora, dall'alluce alla caviglia, tanto, ma quando si arriva nella zona ombelicare o giù di lì. Esatto. E io ho provato che più ritardo il tempo di depilazione, quindi faccio passare un meno mese, fa male, due, meno fa male e la depilazione viene anche perfetta. È semplicemente questa la ragione, quindi è proprio una cosa scientifica. Quindi chi si accosta è invogliato da un miraggio di intima d'azione alle sue meravigliose carni, diciamo, se capita nel periodo sbagliato deve disboscare con il macete, ma se capita nel giorno giusto troverà una pesca vellutata. No, infatti, no, però il mio compagno ormai è abituato e mi fa. Quindi c'è il calendario. Oggi sì, pelo, esatto. Oggi liscio. Sì, mi fa anche la battuta sul gatto, non ogni tanto così. Ma c'è nel senso? Cioè, inghiotte palle di pelo come i gatti. No, fa il verso del gatto quando vede che no, chiaramente non mi sono depilata. Questo, insomma, però è carino. Vede fuoriuscire dal bordo della gonna dei ciuffi pelosi, quindi dice così. Vabbè. No, però questo fa parte della befanaggine, perfetto. No, questo è importante, è una delle cose, cioè una delle ossessioni delle donne, il pelo, quindi figuriamo. Ma anche ancora qualche residuo essere maschile, è un pensiero abbastanza fisso. Infatti. Vabbè, altre cose? Vabbè. Tanti no, era quella la befana manager, che è carinissima, cioè quella che praticamente ormai si è trasformata in uomo, non si toglie più neanche i baffetti a volte, che è una roba incredibile. Non si lava i capelli, non si fa l'acconciatura. Dalla ciccia spesso baffetta alla manager che non si toglie. Bravissimo. Spesso si lava anche poco, per cui quando tu la saluti e senti proprio l'odore del. No, però guardi, so che donne manager conosco io sono profumatissime. Depilatissime, levigatissime, hanno tanti soldi e tante persone che fanno a loro questo. Non tutte, quelle che si stanno trasformando in uomo purtroppo perdono la loro femminilità. Però. E cominciano ad avere quell'odorino un po' naftalinico. Esatto. E questo è una brutta razza, insomma. Mia, di questo anche noi viviamo. Lo so, purtroppo. E in questo caso le vittime della Befana, diciamo, mascolinizzante, è la Befana come lei, che è una piacevole signora, sì, avrà la sua stagione del pelo, però a parte quello, diciamo, passabile. Ma no, diciamo che non proprio così da capo dipendente, no? Da collega, però a volte sì, la subisce un po' questa cosa, no? Perché va bene, Laura, lei che fase è oggi? Solo per sapere, per allucinare fantasiosamente, è nella fase depilata o nella fase cespugliosa? No, depilata. Ah, depilata, perfetto, benissimo. Allora, ancora più volentieri, le elargisco il libro infame. Complimenti, hai vinto un libro infame. Hai qualcosa da lanciare nelle liti domestiche. Alla Befana Laura, approfittando del raro momento in cui è possibile intravederla attraverso la foresta dei suoi peli, regalo il fantastico libro infame di Lorenzo Pinna, Autoritratto dell'immondizia, come la civiltà è stata condizionata dai rifiuti, che diciamo nella fase di smaltimento dei rifiuti tossici dopo la depilazione può essere utile. Ora una citazione, l'arriverà questo libro con una mia dedica. È caduta la linea? Vabbè, comunque ascolterà per radio. Gli arriverà a Laura questo libro con una dedica, perché già lo offrì a un altro ascoltatore che si chiamava Vittoria, una cosa, mi sembra una cosa del genere, però lo rifiutò. Quando seppe che il libro era questo, non lo volle più, quindi è doppiamente citato. Andiamo avanti con Franca. Buongiorno. Buongiorno, complimenti, riesci a mantenere l'attenzione anche con un argomento così strano come la Befana. Beh, è strano, è fondamentale, basilare. Fondamentale, basilare. È diciamo, è il discrimine tra la nostra felicità e la nostra abiezione. È vero, forse davvero, mi fa riflettere. Senta, io volevo leggerle un messaggio che mi ha mandato una mia amica. Sì. Posso? Certo. Allora, ehi, mi serve un favore, se puoi. Ascolta, puoi venire a casa? Ti prego, lo so, è tardi. Ma solo tu puoi aiutarmi. Ci sono aspetta, aiutarmi, aspetta, perché c'è la sua. Beh, Befana è anche ceccata, chiaro. Ecco, ci conto, ok? Tra mezz'ora, vieni, tanto non ti chiederò molto. Aspetta, ma che voleva alla fine l'amica? Ecco. No, se no fa mezz'ora. Non ti chiedo troppo, dovresti solo sederti su una mensola, sai? Sto facendo la collezione di Befana e mi manchi solo tu. È bellino, no? È atroce. No, la trovo atroce perché primo non fa ridere. Non fa ridere. Ma sì, a me ha fatto ridere tanto. Secondo, è un messaggio seriale, quei messaggi del tubo che uno se li scarica dalla rete e lo manda a tutte le amiche. Sai che ridere. Non credo, non è tipo questa mia ma amica. Ma guarda, lei faccia il conto, le vostre amiche comuni, le avrà mandato altre 10 amiche. Ah, è una battuta che non mi fa ridere, la Befana non si mette sulla mensola, quando mai si mette sulla mensola? Comunque non mi ha mandato questo cosa, a me ha fatto tanto lei si è intenerita, ridere. Intenerita sì, anche perché questa è una mia amica giovane che mi lei è vecchia Volpina. Invece mi chiama Volpina perché lei è vecchia. E io sono vecchia, le ho già detto all'età. No. Ho bleffato prima. Quanti anni ha? Ne ha 76. Beh, vecchia è una parolaccia, però Befana, certo, non è di primo pelo, ecco, diciamo così. Sarà difficile salire sulla mensola, questo senz'altro. Sì, però c'è una crudeltà che non approvo. A me piace la crudeltà, non trovo che assolutamente ha una sua estetica molto interessante. Poi che una ragazza mandi una signora che ha qualche anno più di lei l'idea della Befana, non mi fa ridere. Tanto più che la befanaggine, vedo che lei la prende con grande allegria e grande spensieratezza. Quindi, nonostante il suo insistere nell'essere Befana, lei è già particolarmente immunizzata dalla befanaggine. Poi trovo molto Befana la ragazza che manda questo sms. La vera Befana è la sua amica, non è lei. Ma è Befana perché manca di immaginario, manca di creatività, manca anche di particolare ricerca estetica nell'essere cattiva. Dire palesemente a una persona ti metto sulla mensola perché sei una Befana è come una sorta di boomerang estetico, si rivolta contro la persona che ha avuto la piccolezza soltanto di immaginare e allucinare questo sms, quindi lei premio e questo sia vergogna della sua amica. Trullalla, trullalla, la Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte, con la calza appesa al collo, col carbone, col ferro e l'ottone. Sulla scopa per volare, lei viene dal mare e la neve scenderà sui deserti del Maharaja, dell'Alaska al Canada, e partire lei dovrà e cantando partirà. Velocissima, Donatella. Buongiorno, buongiorno Gianluca, buongiorno agli ascoltatori. Sì, io sono la Befana manager. Ma corrisponde in realtà alla descrizione della sua collega? Nei baffetti e la doccia, sì. Ma perché vi lavate poco? Questo non capisco. Con tutto il tempo che avete. No. Cioè, infatti le sto dicendo, no, io la doccia la faccio, non è che ci laviamo poco. È il stress, la corsa. Docce e baffetti li faccio, per tutto il resto è la putrefazione interiore che emana quello d'urino. Bravissimo, perfetto, esattamente così. E anche la natura bistrattata, dimenticata, messa in un secondo piano per l'ambizione, lasciata lì, e tutto il resto invece lavoro, stress, corso, genitori, figli, nipoti, e lavoro ancora, e quindi doccia, capelli raccolti e via di corsa. Questo è il mio essere Befana. Però insomma, le dispiace? Anche a me. E come si fa a uscirne? Non lo so, allora, ci sto pensando, però al momento non ci riesco. Se ne esce solo con l'estrema di partita, se la prende così. A questa maniera sì, direi di sì. O quando arriverà una Befana piuttosto di lei, piuttosto lei che le fa le scarpe e se ne andrà con le scarpe tutte rotte. Mi sa di sì. No, l'ingranaggio è effettivamente è molto pesante. Adesso io sto cercando di drammatizzare. L'ingranaggio è ferreo. Spero di riuscire ad uscirne. Beh, un ingranaggio che deve produrre soltanto carne macinata, questo se ne renda conto. Lo so, sì, perché in epoche precedenti della mia vita ci sono passato anch'io, e grazie a Dio, molto dolorosamente, ma ne sono fuori, ne sono uscito malconcio, però ancora vivo. A tra un istante, grazie signora Befana Donatella, ci sentiamo dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour. È molto interessante questo excursus, questa dichiarazione sincera di Befana Agnew, che non poteva essere carpita se non il giorno della Befana. Oggi le Befane che si sentono commemorate, festeggiate, al centro dell'attenzione di tante persone, anche di tanti innocenti che non sanno chi stanno mantenendo con il loro piattino, con l'avanzo del panettone, con la nocciolina e con il bicchierino con il latte. Oggi le Befane stanno raccontando che sono ovunque, sono tra noi, sono impalpabili, sono invisibili. La Befanaggine non si intravede più dalla scarpa rotta, ma dal pelo che trapassa il collant contenitivo della donna manager, che non si lava, ma in più ha una sorta di marcescenza interiore data dal fatto che si è trascurata, o della Befana mamma, o della Befana moglie, o delle Befane amiche, così crudeli con le loro amiche, imbefanite dal punto di vista anagrafico, ma ancora schiette interiormente integre. Paola, buongiorno. Paola? Pronto? Eccola. Sì. Buongiorno. Sì, parli pure, tranquilla, non succede nulla. È emozionata? Sì, un po' emozionata, sinceramente. Ma le Befane non devono emozionarsi, non devono tradire emozione. No, anche perché mi sono presentata con un discorso, invece adesso, ascoltando voi... No, ma faccia pure il discorso che vuole, non è un esame qua, anzi. Allora, io ho costituito una cooperativa sociale di inserimento al lavoro di disabili. Sì, questa però è una cosa seria. Un anno, e quindi mi sento Befana anche in questo senso con i miei ragazzi. E ci sentiamo, siamo tre soci, tre Befane, e che andiamo d'accordo. Però Ce ne fossero di Befane come voi, lo dico sinceramente, avendo in famiglia un problema di ragazzo disabile, quindi lo so perfettamente qual è il problema. Se non ci pensassero le Befane a questo, probabilmente le fiorite signore non avrebbero questa attenzione. Quindi Befane come voi ben vengano, sono perfettamente contento, mi fa piacere sentirla, però non mi va di scherzare con lei, non mi va di parlare di puzze, di peli e di befanaggine. Ho grande rispetto e grande riconoscenza e grande gratitudine per quello che fate. Anna Maria. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Sì, però riportiamo sul tema pecoreccio, sì, la Befana, se no ci commuoviamo. Io mi sento una Befana stupenda, io mi sono sempre sentita, io mi guardo allo specchio, mi piaccio, io ho tanti difetti come tutti, perché ad esempio ho 61 anni, sono in menopausa, però io mi piaccio, menopausa è una malattia. Mi sento una Befana bella, insomma. Mica una malattia, voglio dire, non è una malattia. Infatti, io non ascolto mai il giudizio di un'altra persona per buttarmi giù di morale, come dici, ma ti piaccio, non ti piaccio, no, io mi piaccio io e sono in pace con me stessa, insomma, mi piaccio. Diciamo mi che questo bella. Scusi Anna Maria, è un bel escamotage. Tutti diciamo io mi piaccio e questo mi basta. colpifero, sì. Dovremmo piacere un pochino anche agli altri, perché sennò sì, alla fine... sì, per l'amor di Dio, no. Però ci sono persone che quando ascoltano il parere dell'altro, se positivo a lei tutto va bene, ma se bisogna accettare anche la negatività, insomma il negativo. Io mi deprimo molto negativa. Quando mi esprimono un giudizio negativo nei miei confronti, ci sto molto male, però ognuno ha il suo carattere. No, io subito ci sto male anch'io, non sono, diciamo la verità, ti voglio essere sincera, perché cioè si sta male, ma non sono poi passa, poi mi guardo allo specchio e dico, ma io sono così carina. Ma se dico brutta, befana, pelosa, puzzolente, lei non è che è contenta. No. Vede, ha voglia guardarsi allo specchio, poi dice, chissà perché me l'aveva detto. Però, come gli ho detto, io ce la metto tutta per tirarmi su, per essere ordinato, cioè io mi trovo... Mica basta. Esatto, io mi piaccio e mi tengo su anche se ho 60 anni. Vabbè, non dica anche se ho quasi anch'io 60 anni, non è che sia un dramma ancora. No, infatti. Qualche piccolo scartino dell'umanità concupiscente potremmo ancora raccogliere, non è detto, no? Infatti, ma sento che lei ha anche una bella voce, complimenti. Sono stia a ruffianarsi al telefono. No, una bella voce veramente. L'ascoltavo anche prima nel passato, la voce il punto. Tranquillizza, la sua voce tranquillizza sì, molto. Pensi un po', la farei parlare con alcune persone che mi stanno vicino e confrontare questo parere con loro. Vabbè, Anna Maria, lei è una finta befana, su, è soltanto una vanitosa signora che vuole sentirsi dire che è bella e fa complimenti e getta ami a tranquilli ormai compassati signori. Cristiana. Buongiorno. Mamma mia, lei ha una voce molto befanesca invece, devo essere sincero. Sì. Allora, ma una donna lei, sì? Sì, per disgrazia. Un tono molto... No, altre volte ci fossero ascoltatori che simulano per prendermi in giro. Allora, lei è befana? No, io sono una befana al contrario. Cioè? Cioè, mi tocca essere befana. Beh, guardi che la natura probabilmente l'ha anche un po' favorita. Ci sta bene questo ruolo, no? No, certe volte non si può scegliere. Cioè quando si ha una famiglia con figli esigenti che ti chiedono di fare e tu come genitore vuoi dare, sei costretto a fare la befana, cioè la schiava. Schiava per il marito, schiava perché la società ti vuole fatta comportarsi in una certa maniera. Sì, stiamo un po' teorizzando, andiamo al punto. Lei capovolge completamente l'assunto teorico di questa missione dicendo che la befana è la schiava della famiglia. Noi abbiamo finora detto che in realtà è la guzzina della famiglia. No, la befana è qualcuna che ha le scarpe rotte perché la famiglia possa avere le scarpe aggiustate. Ah, per farsi è così sottile il suo doppio salto mortale di vessazione che lei si mostra come lo straccio della famiglia, la vittima della famiglia, la povera vittima. Così no. Se hanno dei sensi di colpa atroci che è peggio di ogni tortura fisica. Esatto. Ah, ecco, lei alleva i figli con dei sensi di colpa di confronti di questa mamma, il cui ventre si è squarciato per partorirti, i cui geloni alle mani per mantenerti, il cui le notti insonni per vegliarti lungo le malattie, e tutta la vita avranno questo strascico di sensi di colpa. Oh, lei è una vera befana, ha ragione, lei è veramente una befana, e quindi la premierò. Complimenti, hai vinto un libro infame, sarà l'orgoglio della tua biblioteca. A una vera, autentica, concreta, sadica e acuminata befana che ha avuto il coraggio di esprimere la più cattiva delle befanaggini, quindi far crescere, vivere e mantenere anche nel suo post-mortem un senso di colpa inestricabile ai propri figli, regalo il libro infame Genitori, 60 errori da evitare, così probabilmente in un'altra vita si occuperà meglio. Grazie. Grazie. Abbiamo Annalisa. Buongiorno, io vorrei che mi venisse appuntata una medaglia sul petto in quanto a benefanaggine. Do la colpa agli uomini, io ho avuto 3 mariti e se le piaceva, perché 3 volte lo stesso errore è criminale. Si sono succeduti proprio per crisi di befanaggine, perché nei momenti poi di maggiore depressione il corpo che diventa come il ritratto di Dorian Gray, sì. E quindi crescono i peli, vengono i capelli bianchi e poi arriva qualcuno a rompere questo incantesimo per poi ricominciare il terribile. Quindi lei ciclicamente ritorna giovane come le streghe che bevono il sangue dei bambini, com'è possibile? Esattamente, esattamente. Sì, ma quale nutrimento la fa ritornare giovane e pronta a tartassare un nuovo marito? Il marito che lei ha appena finito di divorare? Di seppellire, sì, sì, sì. Quindi certo. Lei seppellisce mariti? Naturalmente. Si seppellisce metaforicamente. Vabbè, guarda. Questo. La sepoltura concreta perlomeno dà la pace e l'oblio, la sepoltura metaforica è una tortura lancinante perché ne siamo coscienti. Per chi? Per chi la subisce. Ah, per chi la subisce, certo. Ovviamente non per chi la infligge. No, sì, quello è il suo divertimento, è il passatempo della sua vita. Comunque, tartassare gli uomini, non è un passatempo, comunque gli uomini hanno gravissime colpe nelle befanaggini delle loro donne. Assolutamente vero. Perché quando le prendono sono dei fiori, poi non le coltivano più. Sì. Ed ecco che spunta. Beh, innaffiarla la a volte è faticoso, nasone, guardi, con... mi creda, innaffiare questi fiori diventa una fatica molte volte, io lo capisco certi uomini. Va bene. Comunque è stata sincera e mi è piaciuto cogliere la sua volontà nel reiterare l'errore o la lussura nel suo caso e quindi la premio. Complimenti, hai vinto un libro infame. Colmerà il vuoto dei tuoi scaffali. Ci voleva perché ne avevo ancora una copia alla Befana Annalisa, così brava e perspicace nel prendere, cogliere, distruggere, seppellire mariti in maniera seriale. Regalo il libro, che è un libro serissimo, di Gianettore Gassani, che è il capo degli avvocati matrimonialisti, I perplessi sposi. Indagini sul mondo dei matrimoni che finiscono in tribunale. I suoi finiscono al cimitero, però è la stessa cosa. Delia, buongiorno. Pronto? Sì. Dottor Nicoletti? Sì, dottore, certo. Finalmente posso parlarle. Eccomi. Allora, sono proprio la Befana per antonomasia, 85 anni. Non ho difficoltà, credo. Non ho potuto fare la Befana tutta la vita perché ho dovuto lavorare tanto ed ero occupata. Quando non lavoravo curavo i miei fiori, facevo tante di quelle belle cose che non ho potuto mai fare la Befana. E quando è iniziato a diventare operativa? Adesso 85 anni, è pronta. Sono tentata, ho perso la vista, sono a letto invalida, sento le sue trasmissioni. Ha le scarpe rotte? Come dice? Le scarpe rotte, ce le ha? Deve parlare forte perché... Ah, è anche sorda, le scarpe rotte! Ho le calze rotte, certo. Le scarpe rotte, perché le ho tagliate, perché ho persino dei calli che mi fanno male. Ah certo, la lucevalgo e il callone. E quindi con le scarpe tutte rotte, però mi diverto a fare la Befana. E la scopa? Come faccio la Befana? Come? Facendo gli scherzi ai miei nipoti, tendoli un pochino a arrabbiare. Benissimo, esiste una fantastica tradizione alle mie latitudini, si chiama il Segala Vecchia. E con questo chiudiamo la trasmissione. Buona Befana a tutti. Alors tous deux on est parti dans tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.